GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le 12.15, ancora buona domenica da Giampaolo Mauro. Referendum in primo piano in questa edizione, seggi aperti da questa mattina, oggi chiuderanno alle 23 per la prima giornata di voto sulla legge costituzionale di riforma della giustizia. Affluenza vicina al 18% secondo le rilevazioni non definitive delle ore 12. Domenica con numerose manifestazioni di richiamo, a cominciare dalle giornate del FAI, ma anche la primavera di Villa Manin con il giardino del Doge e della giornata mondiale dell'acqua. Andremo a scoprire l'impianto che serve gran parte del territorio di Trieste e andremo alla scoperta dell'Antartide attraverso il racconto di uno dei partecipanti alle recenti missioni dell'OGS. Dunque seggi aperti dalle 7 di questa mattina per il referendum confermativo della legge costituzionale sulla riforma della giustizia. Oggi si potrà votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Per la validità della consultazione non è necessario raggiungere il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto. Scheda di colore verde, due sole opzioni, sì oppure no. Poco fa la prima rilevazione dell'affluenza, che nella nostra regione al momento è del 17,77%, è il dato che deriva dalla rilevazione in 746 sezioni su 1354. I dati per provincia vedono quella di Gorizia come quella con la maggiore affluenza finora, è del 18,73%, a Pordenone il 17,81%, a Trieste del 17,31%, a Udine del 17,43%, dunque dati piuttosto omogenei che comunque non raggiungono il 18%. In Friuli Venezia Giulia gli elettori sono poco meno di 932.000, suddivisi, come abbiamo detto, in 1.354 sezioni. Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua, che celebra la risorsa più preziosa. Tra le numerose iniziative, le visite guidate all'acquedotto Randaccio di San Giovanni di Duino, un centinaio di persone ha raccolto l'invito questa mattina per scoprire l'impianto di captazione gestito da Acega, Sapies e Amga. A pochi passi dalle risorgive del Timavo, uno dei fiumi più misteriosi del nostro territorio, si trova l'acquedotto Randaccio, un comprensorio di 77.000 metri quadrati che rifornisce d'acqua a tutta la città di Trieste e la sua provincia. Nella giornata mondiale dell'acqua, il Randaccio svela, assieme alle guide della riserva marina di Miramare, i segreti dell'acqua che scorre dai rubinetti dei triestini. 130.000 metri cubi di acqua prodotti al giorno, acqua che, contrariamente a quanto si pensa, non viene captata dal Timavo se non in casi di emergenza, ma dal fiume Sardos e per l'80% del fabbisogno dai 12 pozzi lungo l'Isonzo che raccolgono l'acqua a una profondità di 180 metri. A tali profondità l'acqua può avere anche 7 anni e ciò significa che è stata filtrata naturalmente per tutto questo periodo. Inoltre è rimasta lontana da eventuali inquinanti esterni e ha anche raccolto minerali. L'acqua che arriva nelle vaste di decantazione del Randaccio, dove a filtrarla un'altra volta è la sabbia di silicio, e quindi già molto pulita. Il cloro viene aggiunto solo perché nelle utenze domestiche l'acqua rimane ferma per ore. L'acqua dell'acquedotto viene sollevata con le pompe nelle torri piezometriche attraverso due condotte, una sottomarina e una sotto la strada costiera, raggiunge la rete idrica della città, rete che ha diverse vasche di oscillazione poste nei punti più alti della città che fungono da scorta e per il principio dei vasi comunicanti fanno raggiungere l'acqua anche ai piani più elevati delle case. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. In fiera Udine la seconda giornata della rassegna dedicata al tempo libero, visitatori in coda nella prima parte della mattinata, gli organizzatori puntano alle 10.000 presenze, ieri un'ottima partenza. È un mondo variegato e multicolore la fiera del tempo libero Alpe Adria a Udine, perché il tempo libero è tutto, il camper ma anche la Vespa, c'è il campeggio ma anche la bici, il relax ma anche il giro in kayak. C'è una stanza per imparare a conoscere i gatti, una carezza e un salto alla volta, ma anche lo show dei cani e dei loro addestratori. C'è il brusio dei visitatori, in tanti in coda questa mattina alle casse, ma anche un'area conferenze dove le persone si rilassano talmente tanto da dormire, cullati dal suono delle campane tibetane di cristallo. Proprio là accanto vediamo chi fa yoga. In un padiglione le proposte turistiche del territorio, c'è chi offre vacanze sull'acqua, sup, rafting, kayak, sul fell e sul tagliamento. Fuori il raduno dei camperisti, dentro raddoppiato lo spazio espositivo dedicato a questo modo di intendere la vacanza e la vita più in generale. Ieri, nella prima giornata di apertura, 20% di ingressi in più rispetto alla prima edizione dello scorso anno, ci dice il project manager Giuseppe Tanesini. Quest'anno si punta ai 10.000 visitatori con un padiglione espositivo in più. La nostra fiera sta sempre più cambiando pelle, puntando su una sempre maggiore diversificazione dei servizi offerti, il commento del presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza. Circa 150 gli espositori presenti, chiusura questa sera alle 19. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il meteo, cielo da sereno, variabile sulla costa, coperto in pianura, in montagna, alle temperature delle 11, a Trieste 13,5 gradi, vento da est-nord-est, bora a 27 km orari la media, raffiche oltre i 61 orari. A Gorizia, Udine, a Pordenone ci sono 14 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 9,5 decimi, a Tarvisio 6, a Sappada 2, a Forni di Sopra 5,5, in quota sullo Zoncolan e sul Lussari meno 3, sulla costa a Lignano e a Grado 14. Secondo l'ARPA, per il resto della giornata avremo nuvolosità variabile con bassa probabilità di deboli precipitazioni sparse, ancora bora moderata, specie sulla costa e sulle zone orientali, con possibili raffiche anche sostenute a Trieste. Domani cielo da poco nuvoloso variabile, sulla zona montana bassa probabilità di qualche pioggia al pomeriggio, sulla costa e sulle zone orientali soffierà ancora bora moderata, specie al mattino. Come ci si sente a vivere in Antartide con temperature che scendono fino ai meno 80 gradi? Questa mattina il tecnico informatico dell'OGS, Eric Geletti, 28 anni, lo ha raccontato ai visitatori dell'immaginario scientifico di Trieste e lo farà di nuovo alle 16. Gli abbiamo chiesto innanzitutto perché ha scelto di partire. Andare in Antartide mi ha sempre affascinato e, essendo che lavoro per l'OGS, ho sentito di tanti andare in Antartide, ma nessuno che sia stato lì l'intero inverno a Concordia, che è una stazione remota a 1100 km dalla costa sul plateau, che è una zona un po' diversa da quella che di solito OGS esplora. Quindi mi sono candidato e mi hanno selezionato per andare lì come tecnico informatico. Un'esperienza veramente estrema, molto difficile, immagino, sia sul piano tecnico che umano. Restare lì isolati in sole 13 persone per 9 mesi senza nessuna possibilità di un'evacuazione, nemmeno in caso di emergenze mediche, certamente molto impattante. Tuttavia adesso, con le nuove connettività che ci sono in Antartide, con le reti satellitari, si riesce ad essere molto più in contatto con tutto il resto del mondo, e quindi si riuscivano a fare videochiamate e tutto il resto, e quindi la distanza si accorcia. In che modo questa esperienza può cambiare la personalità? Sicuramente si impara a vivere con gli altri e si impara ad organizzarsi e ad avere rispetto di tutti. È un'esperienza che rifarebbe? Dovendo riscegliere, sicuramente sceglierei di nuovo di partecipare a questa missione. Certamente un anno è lungo e le cose da fare sono molte, quindi non credo che sceglierei di nuovo di partecipare a un'intera campagna invernale. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un annuncio a chiuso dedica 2026 a Pordenone, la 32esima edizione. Il protagonista del festival, lo scrittore e giornalista francese Serge Chalandon, ha fatto sapere che il suo prossimo libro sarà ambientato nell'Irlanda dell'Ottocento. Nel tempo ha raccontato della grande carestia voluta dagli inglesi che provocò 1 milione di morti e costrinse 1,5 milioni di persone emigrare. Un progetto che nasce anche dall'esperienza vissuta a Dedica, dove lo scrittore ha trovato, come ha spiegato, una spinta nuova verso la scrittura, e non un festival ma una famiglia, sentendosi accolto, protetto e oggi pronto a ripartire più forte con le stelle negli occhi. E quelle stelle ce le avete messe voi a Pordenone. Più che un riconoscimento, ha concluso Chalandon, questa esperienza rappresenta per me un obbligo a continuare a proseguire il mio lavoro di scrittore, di giornalista e di essere umano. Gli appuntamenti di Dedica hanno fatto registrare il sold out con 8.000 presenze complessive e più di 800.000 visualizzazioni sui canali social. Lo sport pallavolo è a un passo da ritorno in A1 la CDA Talmassons, che nel pomeriggio gioca a Roma questa chance affrontando il Volley Club Capitolino. Stiamo parlando della A2 femminile. Le friulane, dopo il sorpasso nella giornata precedente, si presentano da capoliste all'ultimo appuntamento della pool promozione, decise a cogliere l'opportunità del salto di categoria diretto. La partita comincerà alle 17 e vale una stagione. Nel basket si gioca nel massimo campionato con Trieste che alle 17 ospita la Reyer Venezia, riposa invece la Udine. In A2 maschile la Gesteco Cividale gioca a Scafati, l'inizio alle 18. Nella A2 femminile, ieri sera a Trieste, la sconfitta del Futurosa ad opera delle siciliane del Golfo Basket. Si chiude la Coppa del Mondo femminile di biathlon. Lisa Vittozzi sarà impegnata a Oslo nella Mass Start che comincerà alle 13:45. Infine il canottaggio. Il triestino Massimiliano D'Ambrosi è stato confermato consigliere federale nell'assemblea straordinaria della Federcanottaggio, che ha eletto alla presidenza il padovano Rossano Galtarossa. D'Ambrosi, 53 anni, ha ricevuto 127 voti, un ampio consenso per il nuovo mandato che rinnova quello ricevuto nel 2021. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello ed Eugenio Giuffrida. Sono le 12:26 minuti, prossima edizione oggi alle 18:30. Grazie a tutti voi per averci seguito e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.